Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo con la riunione dei ministri economico-finanziari dell'Europa, dell'area euro ieri sera e dell'Europa intera oggi, vertice Ecofin. Si è discusso soprattutto di Tobin Tax, nel giorno in cui ha parlato anche il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. E anche di questo parleremo. Ho detto, insomma, il piano di acquisto della Banca Centrale Europea di obbligazioni di titoli di Stato dei paesi in difficoltà evita scenari distruttivi. Parleremo anche di Grecia, perché è arrivata l'amatissima Angela Merkel ad Atene, come prevedibile, come già annunciato anche da noi ieri. Molti scontri e tensioni. Inizia a trapelare l'ipotesi, che in Germania viene vista, devo dire, anche comprensibilmente, come una vera e propria bestemmia, del fatto che la Grecia possa non onorare i suoi impegni. Le borse sono tranquille, soprattutto Milano meno 0,10%, Parigi perde mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,70%, Londra meno 0,50%, come gli Stati Uniti. Quindi Milano relativamente tranquilla grazie a tre titoli: Ansaldo STS più 3,35% come Stima Electronics, e Media 7 più 2%, bene anche Azimut più 1,60% e Diasorin più 1,40% ed Eni più 1,20%, bene anche la Popolare Emilia Romagna più 1,31%. Perde il Monte dei Paschi invece il 3,40%, Mediobanca l'1,5% come Telecom Italia, e TODS l'1,30%. È il calo del Banco Popolare, l'1%, quello di Prismian, Snam e Terna, e anche in pregilo, ma insomma, come sentite, variazioni abbastanza contenute sia verso l'alto che verso il basso. Ci occuperemo poi invece dei temi di casa nostra, e mi riferisco al Consiglio dei Ministri, la convocazione abbastanza all'improvviso delle parti sociali alle 15 da parte del Governo, prima di iniziare un Consiglio dei Ministri che è iniziato da pochissimo. Da qui dovrebbero uscire le novità sulla legge di stabilità, ne abbiamo parlato a lungo ieri. È una mini manovra finanziaria che vale tra i 9 e i 12 miliardi, almeno 9. Servono per evitare le risorse da reperire, servono per evitare l'aumento dell'IVA, altrimenti l'IVA andrà da 21 al 23%, e poi ci sono 3 miliardi e mezzo di spese indifferibili, tra cui quelle per le aree terremotate di Lombardia, Veneto e soprattutto Emilia Romagna, e poi 1,2 miliardi per rifinanziare la detassazione dei premi di produttività. Arriveranno, da quello che si è capito, poi vedremo, dai tagli alle regioni e agli enti locali per 2,5 miliardi, tagli alla sanità fino a 1,5 miliardi, risparmi dal piano cosiddetto Giavazzi, che riordina gli incentivi con risparmi per circa 400 milioni, e poi altri tagli non meglio precisati. Per un'eventuale però manovra fiscale, cioè una manovra che andasse a ridurre le tasse soprattutto sui lavoratori, per liberare un po' di potere d'acquisto, anche oggi c'è un dato brutto su questo, servono altri 10 miliardi di euro, e qui non si capisce però dove potrebbero essere presi. Dicevo che c'è un dato non bello sul potere d'acquisto delle famiglie italiane, perché oggi lì è stato confermato che è un vero e proprio crollo, meno 4% il potere d'acquisto delle famiglie italiane, se si tiene conto dell'inflazione, siamo a un meno 4,1% nel terzo trimestre rispetto al secondo. Il calo è comunque, per dare un'idea delle proporzioni, è il più marcato dal 2000 in poi. E l'Istat poi ha confermato invece altre previsioni, tra cui un calo del PIL quest'anno del 2,6% per quello che riguarda l'Italia. Il ministro Grilli all'economia però ha detto non ci sarà una nuova manovra, e ha chiarito che questa legge di stabilità varrà tra i 10 e i 12 miliardi. E poi per evitare appunto l'aumento dell'IVA. C'è poi un braccio di ferro invece tra il Ministro dell'Economia e il Ministro della Salute, quindi tra Grilli e Balduzzi, sui tagli alla sanità. E poi una bozza di riforma del titolo quinto della Costituzione, quello che ha già riformato con un pastrocchio, a mio avviso, dall'ultimo governo di centrosinistra, è quello che dà le deleghe alle regioni. Dovrebbe, da quello che si è capito, in questa bozza dovrebbe essere presente il fatto che i porti, gli aeroporti e l'energia tornano sotto l'esclusiva competenza dello Stato, e poi che c'è il controllo preventivo della Corte dei Conti sul bilancio delle regioni. A questo proposito vi dico subito che abbiamo oggi, torna con prepotenza il nostro appuntamento, che ripeto non vorremmo avere, ma così è, sugli sprechi delle regioni. Oggi ce n'è per tutti: Lombardia, Emilia Romagna, PD, PDL, poi ve li raccontiamo. E chiaramente faremo anche i mercati finanziari, e poi ci occuperemo di una vicenda che si sta complicando. Doveva essere la fusione in grado di creare il colosso del settore aerospazio difesa, mi riferisco a EADS, che è quella che controlla Airbus, e Buy System, e sarebbe fallita, lo riferiscono fonti vicino alla trattativa. Francia e Gran Bretagna non sarebbero riuscite a trovare un accordo sulle modalità della fusione. L'eventuale fusione avrebbe dato vita a un gigante da 37 miliardi di euro di capitalizzazione e 70 miliardi di euro di fatturato, alla pari con Boeing, ma avrebbe tagliato fuori Finmeccanica, nemmeno interpellata sull'ipotesi di fusione. Finmeccanica che oggi si è aggiudicata nuovi contratti per 93 milioni di euro comunque. Devo dire che in borsa il titolo è fermo, meno 0,14%. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, e come sempre la pagina di Facebook di Focus Economia per interventi invece attraverso il computer e la rete. Partiamo subito con le notizie in breve. Vi do un'ultima ora: è appena uscita un'agenzia infatti che dice che dalla bozza della legge finanziaria che è in approvazione al Consiglio dei Ministri viene eliminato completamente l'articolo che prevedeva l'aumento dell'IVA dal 1 luglio 2013, quindi non dovrebbe esserci a questo punto in maniera definitiva l'aumento dell'IVA al 2013. È un bicchiere mezzo vuoto, ma guardiamolo mezzo pieno. Ho visto che già è passata dal 19 al 21%. Petrolio e oro sempre stabili, oro a 1779 dollari l'oncia, petrolio a 90 dollari barile a New York. Invece, tornando alla crisi in Europa, la Croce Rossa spagnola si appresta a lanciare un appello per aiutare la popolazione spagnola afflitta dalla crisi economica. Con il giorno della banderita e il dia della banderita, chiederà aiuti per i 300.000 indigenti stimati nel paese. La Croce Rossa spagnola prima della crisi si occupava solo di immigranti in Spagna, ma ora con una persona disoccupata su quattro, la Spagna ha il tasso più alto di disoccupazione dell'Europa, è il doppio di quello italiano. Beh, insomma, praticamente sempre più famiglie hanno necessità di generi alimentari. E poi fa sapere l'UNICEF: in Spagna vivono 2.300.000 bambini sotto la soglia della povertà, il 27% della popolazione, e circa 80.000 in più rispetto all'anno precedente. E questo allarme povertà si unisce a quello della Croce Rossa sui 300.000 indigenti in Spagna. Ognuno faccia le considerazioni che crede, è difficile far ripartire l'economia europea se continuiamo però a chiedere tagli massicci a economie già in ginocchio. Il che non vuol dire regalare i soldi alla Spagna o alla Grecia, ma vuol dire capire che quando un paese sta facendo questi tagli e crolla il potere d'acquisto, se continui a strangolarlo, poi lo soffochi, no? Parleremo di Angela Merkel. Il Fondo Monetario Internazionale invece plaude alla Spagna e all'Italia, dice che gli sforzi sono stati giustificati, sono stati importanti, e sono ingiustificati invece gli spread su Francia e Spagna, ingiustificati alla luce dell'andamento del deficit debito e degli sforzi. Gli spread che Madrid e Roma stanno pagando, dice il Fondo Monetario Internazionale, non riflettono i fondamentali dell'economia. Chiudiamo con l'Italia, con il fondo esodati. Ne parleremo nella seconda ora del programma, quando faremo tutta la pagina sul il Consiglio dei Ministri. Perché? Perché la Ragioneria dello Stato ha bocciato il disegno di legge sugli esodati, quello che vale circa 5 miliardi di euro ed estende l'accesso alla pensione a circa 250-300.000 persone rispetto alle 120.000 attualmente, tra virgolette, protette dalla riforma Fornero. Troppo costoso il disegno di legge esodati e infatti la Commissione Bilancio della Camera ha constatato l'assenza di coperture finanziarie del disegno di legge Damiano. Non ha espresso parere negativo, ma ha rinviato il testo alla Commissione del Lavoro affinché lo modifichi. E Grilli, però, il ministro Grilli, poco fa, poco prima che iniziasse il Consiglio dei Ministri, ha detto tra gli obiettivi della legge di stabilità, questa mini manovra, c'è anche quello di assicurare un fondo ad hoc per gli esodati. Staremo a vedere. Allora, c'è chi scrive: per fortuna lei può criticare gli sprechi delle regioni, così riesce a fare la sua puntata. No, guardi, la puntata la facciamo comunque, e come ha sentito l'economia è tanto varia, è tanto bella, che ci occupiamo di tutto, della Croce Rossa spagnola sui bambini spagnoli, alla vicenda BAE System e EDS con l'esclusione di Finmeccanica, ai mercati. C'è però anche un tema di sprechi di soldi pubblici, visto che qua stiamo raschiando il fondo del barile, ammesso che ci sia ancora un fondo, che non si riescono a trovare le coperture per gli esodati, e che il Sole 24 Ore due settimane fa ha dimostrato che se tutte le regioni avessero una spesa standard, cioè la media tra quelli più cari e quelli meno cari, avremmo un risparmio annuo di 4 miliardi di euro. 1,3 miliardi se la spesa media fosse per il personale, se tutti pagassero più o meno la stessa cosa per il personale, regioni virtuose e regioni non virtuose, e un 2,7 miliardi che arrivano da una spesa standard per forniture, costi di mantenimento. 4 miliardi all'anno, abbia pazienza, troveremo anche parte dei soldi per gli esodati. Quindi, come vede, l'economia economos significa il governo di tante cose, non solo della finanza, come pensa lei, o di qualche altra operazione per pochi addetti ai lavori. Allora torna la nostra rubrica, con buona pace di alcuni ascoltatori, sugli sprechi delle regioni. Vi dico oggi, tenetevi forte, perché ne abbiamo una marea, con dei casi dove sarà difficile non ridere, almeno per non piangere. Abbassare potrebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, perfino in Kenya si lamentano del bonus che i deputati kenioti si sono dati, proteste di fronte al Parlamento con scritto parlamentari ladri, iene avide. I deputati del Kenya si sono dati un aumento di circa 90.000 euro a testa per ciascuno dei 222 parlamentari. Invece vediamo che cosa succede, vediamo se c'è un tema economico in quello che succede con i premi. Ricorderete che Brunetta, l'ex ministro Brunetta, aveva introdotto le pagelle per la pubblica amministrazione, in cui uno viene valutato e, come un dirigente del privato, se raggiunge l'obiettivo ha un premio, viene stabilito all'inizio qual è l'obiettivo e com'è che devi, il premio che avrai, e se no non avrai il premio. Allora, praticamente la media è di circa 35.000 euro, ma adesso vediamo come sono distribuiti. Io però ho bisogno disperato di un tango della Maiella. Allora, io dico una cosa: chi pensava che i dirigenti delle regioni italiane fossero così normali si sbaglia. Ci sono dei curricula pronti per essere presi nel settore privato e soprattutto da aziende multinazionali estere. Mi aspetto una fuga di cervelli dalla pubblica amministrazione verso l'estero, perché adesso vi leggo quanti hanno ottenuto, diciamo, gli obiettivi che gli erano stati fissati, e sono numeri da efficienza svizzera, svedese. In Lazio, nonostante la sanità laziale vanti un buco di 1 miliardo di euro l'anno, i dirigenti della sanità laziale hanno avuto nel 2010, nel 98% dei casi, hanno centrato il loro obiettivo, a meno che non fosse il buco, e solo il 2% non ce l'ha fatta. Io vorrei veramente un minuto di silenzio per il 2% tagliato fuori da questa manna. Il 98% infatti ha raggiunto l'obiettivo con un premio che va dai 15.000 ai 20.000 euro, oltre allo stipendio annuale che va dai 90.000 ai 200.000 euro. Quindi una professionalità estrema, tutti raggiungono l'obiettivo. Ma anche nella regione Toscana, su 136 dirigenti hanno ottenuto il premio per il risultato raggiunto, per l'obiettivo raggiunto, e ben 2.376 funzionari su 2.387, cioè sono 11 sfigati che non ce l'hanno fatta, tutti gli altri siamo con percentuali bulgare, visto che parliamo della Toscana. La regione ha speso 13 milioni di euro per questi premi, non proprio bruscolini, che arrivano fino a 35.000 euro oltre lo stipendio. Le pagelle, è incredibile, perché le pagelle introdotte da Brunetta, si chiamano OIV, cioè c'è un organismo indipendente di valutazione che deve dire se il dirigente della pubblica amministrazione è bravo o no e merita o no il premio. Intanto costano questi organismi indipendenti, nel senso che chi deve valutare si becca 18.000 euro di compenso a testa. Però sono tutti unanimi sulla bravura dei dirigenti, perché praticamente in Abruzzo tutti promossi i dirigenti regionali abruzzesi al premio di risultato, ai due livelli massimi, in media 16.000 euro tra i circa 100 dirigenti, con aumenti dei premi del 66%. In Emilia-Romagna ci sarebbero 4 fasce di merito, no? A, B, C, D, bravo 100%, B 80% del premio, C 60%, D 40%, quindi molto bravo, bravo, bravino, appena appena. Non è così. Tutti sono o nella fascia A o nella fascia B. Su 170, in 112 hanno avuto la fascia A, in 58 la fascia B, nessuno non ha avuto il premio. E si sono così divisi i dirigenti della regione Emilia-Romagna 2.273.127 euro in gratifiche, in media 10.000 euro in più a testa. Anche questa mi sembra economia. In Molise si festeggiano le capacità di dirigenti regionali nello stesso modo. Praticamente il numero dei dirigenti premiati, incredibile a dirsi, coincide con il numero dei dirigenti stessi, si chiama 100% di premi. E tra l'altro anche Elvio Carugno hanno premiato come dirigente in Molise, sono 13.000 euro a testa. C'è un piccolo particolare: Elvio Carugno è in carcere da 6 mesi per peculato, evidentemente è sfuggito nella valutazione, un dettaglio. E poi i 69 dirigenti della regione Umbria, che hanno trovato a settembre 15.000 euro in media a testa come premio di produzione. E l'unica regione che fa eccezione, va detto, è il Veneto, dove hanno tagliato le gratifiche alla cosiddetta casta dei burocrati. Ma io accolgo con favore il fatto che i dirigenti delle regioni italiane tendenzialmente hanno delle performance migliori di qualunque altro settore privato, di qualunque altro paese, perché hanno 98%, 100% che meritano il premio, bravi, non ce ne eravamo accorti, e quindi io direi un bel applauso a tutti i dirigenti delle regioni italiane. Adesso però ho bisogno di un supporto morale per riuscire a leggere questa parte delle notizie che riguardano le regioni, perché qua arriviamo all'incredibile. Mi date una cosa che sentiva mio figlio da piccolo, Catherine Cammello, una cosa del genere? È il Catali Cammello, veloce, alto e bello, riesce a carburare con energia solare. È Catali Cammello. No, non siamo impazziti, ve lo spiego. Nel 2010 la regione Emilia-Romagna ha acquistato 7 dromedari da latte. Ok, venite qui. Catali, Catali, Catali. Allora, sono 7 dromedari da latte provenienti dal Sahara occidentale. Il governatore Errani si difese dall'accusa di sprecare soldi, e quando mai? Ha detto no, ha rivendicato con orgoglio che quei soldi servivano per sfamare dei bambini. Ma dove? In Emilia Romagna? Con gli asili migliori d'Europa? Poi, perché il latte dei dromedari? Comunque, dopo quell'esperienza di sette dromedari, che vorrei sapere che fine hanno fatto, comunque continuano a fare latte di dromedario. I cammelli non sono più entrati nelle spese della regione, però ci sono altre cose carine sulla regione Emilia-Romagna, perché la giunta Errani ha dato 1500 euro all'Accademia della Muffa Nobile di Zola Pedrosa. Io la Muffa Nobile penso che sia quella che viene nelle parti nobili alla nostra classe politica a forza di non schiodarsi dalla sedia. Ma che è sta cosa, la Muffa Mobile, Muffa Nobile, scusatemi, di Zola Pedrosa? E poi 15.000 euro al centro di documentazione per la patata di Budrio. Il primo che fa una battuta sugli sms mi arrabbio. 15.000 euro al centro di documentazione per la patata di Budrio, che immagino essere un ortaggio. E ancora 1.000 euro per la sagra del fungo di Borgotaro, e va boh. Un capitolo a parte però lo merita il finanziamento dell'associazione di Emiliano Romagnoli nel mondo, perché praticamente la regione Emilia-Romagna spende soldi per tutti, per il Paraguay, per Caracalli in Romania, per Liegi, per Mar del Plata, a Stuttgart in Germania, in Argentina, e alla fine si arriva a quei famosi 3 milioni di euro all'anno spesi per gli emiliani romagnoli nel mondo. Chiudo con la regione Lombardia, perché praticamente è stato condannato a 2 anni e 6 mesi il consigliere Gianluca Rinaldin e 30.000 euro di truffa nel 2006 proprio sui rimborsi spese, falsa comunicazione del rendiconto alla campagna elettorale. In realtà gli è andata bene, perché c'era anche un'altra accusa, quella di essersi messo d'accordo con due imprenditori che gli avevano finanziato la campagna elettorale nel settore turismo, e praticamente l'accusa era che gli imprenditori gli avessero retrocesso il 20% dei 188.000 euro ricevuti nel 2006 e dei 143.000 euro ricevuti nel 2005. In realtà cosa è successo? Uno dei due imprenditori ha ritrattato tutto, ha affermato di aver mentito su Rinaldin e di averlo ingiustamente accusato. Meglio così per Rinaldin, Gianluca Rinaldin. Direi che con i cammelli abbiamo fatto veramente il massimo anche oggi. Meteo, la borsa chiusa con un meno 0,30%. 17.35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo a Bruxelles e poi ad Atene. Due risposte brevissime sul tema. Molti hanno scritto al 349-238-6666 sulla muffa nobile. Lei è un ignorante e sì che si intende di vino, non capisce che è una muffa che consente di produrre vini pregiati. E altri mi hanno detto: guardate che i dromedari da latte acquistati dalla regione Emilia-Romagna servivano per le popolazioni profughe del Sahrawi. Allora, vediamo di capirci. Io non ho detto che la muffa nobile non sia un tema, per carità, ma perché la regione Emilia-Romagna deve spendere 1500 euro per l'Accademia della Muffa Nobile? Se è un tema importante per la viticoltura italiana, ci sarà l'organismo centrale che farà ricerca, non so se sia il CNR, l'ISMEA, quello che vuole il Ministero dell'Agricoltura. Ci sarà l'associazione dei produttori di vino, ma perché una singola regione deve destinare 1500 euro, che non sono una grande cifra, ma voglio dire, sono per l'Accademia della Muffa Nobile, che poi questo significa parcellizzazione, divisione, spreco come efficienza di tutte le risorse. È un problema che riguarda la vite? La ricerca serve per fare vini pregiati, e facciamola su base nazionale, no? Ogni regione si fa la sua. Vale anche per i Sahrawi. Sono stufo che queste regioni si facciano politica estera che non serve a niente. E che sette dromedari cosa hanno risolto? Il problema dei bambini nel Sahrawi? No, hanno risolto il problema dei dromedari. Loro staranno meglio in Emilia Romagna che forse che nel Sahrawi, per favore. Adesso comunque noi andiamo prima al vertice Ecofin in Lussemburgo e poi ad Atene. 349-238-6666 per i vostri sms. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. No, mentre sui soldi spesi per la valorizzazione della patata di Budrio devo dire che siete tutti d'accordo, ma nessuno ha accolto il mio appello. Anzi, ho ottenuto l'effetto contrario, diciamo. Mario Draghi in mattinata, non da Lussemburgo, ha precisato: il piano di acquisto di titoli di Stato di paesi in difficoltà da parte della Banca Centrale Europea, il cosiddetto OMT, evita scenari distruttivi. La Banca Centrale Europea ha recentemente preso importanti decisioni per fronteggiare le gravi distorsioni nel mercato dei titoli di Stato. La Banca Centrale è pronta, una volta che saranno in essere tutti i prerequisiti, ad attivare il cosiddetto OMT, il piano di acquisti calmieranti di titoli di Stato. Il piano fornirà un sistema di protezione efficace per evitare scenari distruttivi che potrebbero minacciare la stabilità dei prezzi nella zona euro. Il nostro annuncio del piano OMT ha aiutato a migliorare la fiducia dei mercati finanziari. Le azioni della BCE aiutano a costruire un ponte che deve avere una chiara destinazione. Tre le strade per raggiungere questa meta. La prima, migliorare il consolidamento dei conti pubblici e delle riforme strutturali per aumentare la competitività. La seconda strada implica il completamento della riforma del settore finanziario. La terza via riguarda il completamento di una vera unione economica e monetaria. Nel frattempo il vertice in Lussemburgo oggi, vertice Ecofin, ha visto 11 paesi aderire alla cooperazione rafforzata sulla Tobin Tax, la tassa che dovrebbe tassare le transazioni finanziarie. E i paesi a favore sono Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Portogallo, Slovenia, Grecia, Slovacchia, Estonia. La Gran Bretagna è contro, ma ha detto che non la ostacolerà. Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Ecco Beda, al di là della Tobin Tax, adesso vorrei capire con te che cosa succederà dopo l'adesione di 11 paesi. Il tema Spagna non è stato toccato oggi? No, oggi non in modo particolare, se ne è parlato soprattutto ieri quando il ministro delle finanze De Guindos ha presentato ai suoi colleghi dell'Eurogruppo le ultime misure economiche. Si discute evidentemente sulla stampa in particolare di una prossima richiesta di aiuto europeo da parte della Spagna. Il sentimento che predomina in questo momento è che sia per motivi di politica interna spagnola che per motivi di politica interna di altri paesi e anche forse per opportunismo europeo, in questo momento è forse meglio aspettare. Quindi ho l'impressione che nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito a un allentamento della pressione perché la Spagna chiedesse aiuto, e soprattutto dalla Francia, che ha fatto pressione nelle scorse settimane e che adesso ha un atteggiamento molto più morbido. E quindi meglio soprassedere, attendere e vedere che cosa capiterà. Chiudiamo invece sul Tobin Tax. Noi abbiamo fatto un sondaggio, come spesso facciamo su Facebook, per quello che vale, abbiamo chiesto sulla pagina di Focus Economia: siete favorevoli alla Tobin Tax? 65% sì, 32% no, 4% non so. Dall'accordo di oggi, dall'adesione di oggi, che cosa verrà fuori con la Gran Bretagna comunque che non ha firmato? È un'operazione ambiziosa, la definirei in questi termini. Adesso abbiamo 11 paesi che sono pronti ad adottare questa tassa. La palla passa alla Commissione europea, che deve presentare un proprio progetto. Ricordo che la Commissione aveva già presentato una proposta alla fine dell'anno scorso. Immagino che la vorrà in parte rivedere e discutere a un Ecofin che si svolgerà in novembre. Allora, perché questa operazione vada in porto, non è necessario soltanto un accordo fra gli 11 paesi che hanno deciso di adottare in principio questa imposta. È necessario anche un voto a maggioranza qualificata da parte dei 27 membri del Consiglio Ecofin, che raggruppa i ministri finanziari dell'Unione. Non credo che debba per forza esserci un problema in quel frangente, però è un passaggio cruciale. Quindi ci sono due aspetti da risolvere. Prima di tutto bisogna trovare un accordo tra gli 11 paesi e poi bisogna avere l'accordo di una maggioranza qualificata dei 27. Sì, ci chiedete perché la Gran Bretagna è contraria. Beh, perché insomma l'industria finanziaria più grande al mondo è quella della City di Londra, perlomeno a livello europeo, la City, Wall Street e Hong Kong si spartiscono, diciamo, il 90% delle piazze finanziarie mondiali. Londra teme che una tassa che vada a incidere sulle transazioni finanziarie renda meno appetibile la City, quindi porti molti operatori fuori da Londra, quindi non vorrà e non vuole applicarla. Grazie a Beda Romano. Però il tema europeo oggi non si esaurisce con il vertice Ecofin, perché c'è tutto il fronte invece di Atene, dove la cancelliera tedesca Angela Merkel oggi è arrivata a incontrare il premier Antonis Samaras per discutere delle riforme che restano da fare e per convincere l'Unione Europea a sborsare la prossima tranche di aiuti da 31 miliardi di euro. Ieri, nel corso del vertice Eurogruppo, il presidente Juncker ha detto che la Grecia ha tempo fino al 18 ottobre, giorno del summit europeo, al più tardi, per dimostrare la sua determinazione sulle riforme promesse in cambio degli aiuti internazionali. L'accoglienza di oggi ad Atene di Angela Merkel, diciamo che non è stata proprio delle migliori. Merkel, δεν είναι η πρώτη φορά που μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε και τις προηγούμενες φορές και σήμερα στις συνομιλίες μας κυριάρχησε η ειλικρίνεια, η αμοιβαία κατανόηση. E questo è il premier Samaras nelle conferenze stampa con Angela Merkel. Ha detto la cancelliera Merkel ha mostrato comprensione. Poi ha aggiunto Samaras: abbiamo fatto errori, ma la Grecia ha subito un isolamento eccessivo. La visita di Angela Merkel dimostra che l'uscita della Grecia dall'euro non è un'opzione praticabile. Il nostro nemico è la recessione e la Grecia comunque è pronta a rispettare i suoi impegni. E anche Angela Merkel ha detto: in Grecia siamo amici con i greci, siamo amici e partner, i risultati cominciano a vedersi, è il momento delle scelte cruciali per la crescita della Grecia. La strada è dura, ma vedremo la luce a fine del tunnel. Io ricordo sempre la battuta del nostro ascoltatore: basta che non sia quella del treno che ti sta arrivando contro. Vittorio Darold, l'uomo greco del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, qua è tutto un volemose bene, così facciamo una sintesi tra Berlino e Atene, mettiamo di mezzo Roma. In realtà mi sembra di capire che ieri al vertice Eurogruppo i timori siano stati ben più forti, e l'ultimatum alla Grecia è stato dire: hai tempo fino al 18 di ottobre. Sì, esatto, 18 di ottobre, quindi nonostante la presa di posizione di Angela Merkel, che appunto è venuta per dire che la Grecia sarà nell'euro e deve restare nell'euro, e quindi c'è l'appoggio della Germania, il premier Samaras ha detto che sì, la Grecia è rimasta isolata e ci sono stati degli errori, ma insomma stiamo cercando di recuperare quello che non abbiamo fatto. Il problema di fondo è che i greci accusano proprio Angela Merkel di essere arrivata troppo tardi, che di aver fatto incancrenire la situazione e di essere poi arrivata troppo con una severità eccessiva, quindi con un piano di austerità che effettivamente sta mostrando tutti i suoi limiti. In sostanza i greci non ce la faranno, hanno chiesto ancora 2 anni di proroga e questa è l'ipotesi più probabile. Nel Figaro, in un'intervista al Figaro, il ministro cipriota delle finanze ha ammesso che probabilmente a novembre si dovrà andare al Bundestag e la cancelliera Merkel dovrà chiedere aiuti, nuovi aiuti per la Grecia, per Cipro e probabilmente per la Spagna. E quindi è tutta un'attività dilatoria il cui unico scopo non è tanto quello di convincere i greci, che probabilmente non saranno mai convinti, ma di convincere i tedeschi, perché a Merkel a settembre del 2013 deve essere rieletta e quindi con questo viaggio sta cercando di convincere soprattutto la CSU bavarese e i liberali, quindi i suoi, una parte della sua coalizione, che questo salvataggio sa da fare per salvare l'euro e perché l'euro conviene alla Germania. Sì, e qui anche tu ci confermi che circolano con sempre maggiore insistenza le ipotesi che tanto la Grecia andrà a chiedere la dilazione, poi vuol dire anche un non pagamento, cioè non ti pago adesso, vediamo fra due anni, parliamoci chiaro, perché non è semplicemente una rirateizzazione, è dire i soldi te li ridò fra due anni, non adesso, quindi ora come ora non ti pago. E tu ci confermi che questa ipotesi inizia a prendere piede con sempre maggior forza, modestamente. Lo diciamo da mesi che con 6 anni di recessione continui e con cifre del meno 4, meno 5, è difficile che un paese come la Grecia, che esporta quasi nulla, riesca a risollevarsi a botte di tagli ai conti pubblici. Gli scontri, Vittorio D'Arold, per chiudere, oggi da te davanti al Parlamento, davanti all'incontro tra Samaras e la Merkel, erano tra virgolette attesi e sono andati secondo copione? Sì, esattamente. L'elemento di novità, se vuoi, è quello che oltre alla protesta partito di sinistra radicale, Siriza, quindi c'era Tsipras in piazza che ha naturalmente non ha rispettato il divieto di manifestazioni pubbliche, quindi è andato lì, c'erano anche dei rappresentanti della Linke, quindi partito radicale tedesco, che in qualche modo si sono opposti all'austerity della Merkel, sia a livello di naturalmente partito tedesco, ma sia anche a livello europeo. Quindi era proprio quando gli estremi si toccano, certo. Sì, e poi i colleghi giornalisti greci naturalmente non hanno mancato di notare che il vestito ho visto. Della Merkel era dello stesso colore quantomeno che indossava durante la partita vittoriosa per Germania. La squadra di Germania contro la Grecia. Ma lì magari era un segno di austerity, si rimette lo stesso vestito a distanza di 4 mesi, non so se sia un segno di eleganza, ma sicuramente di austerity, mettiamola così, se no buttiamo altra benzina sul fuoco, e mi sembra che nei rapporti Atene-Berlino non ce ne sia bisogno. Grazie a Vittorio D'Arold, appunto inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Adesso la borsa, in una parte di borsa e poi il resto. Ricordo però quello che capiterà qui al Sole 24 Ore il prossimo 11 ottobre, e quindi fra 2 giorni, giovedì alle 18.30 presenteranno il Festival delle Lettere, il London Short Film Festival, un'iniziativa che nasce dalla nostra iniziativa Disperati Mai. Ricorderete gli imprenditori, le migliaia di imprenditori, artigiani, commercianti che ci hanno scritto della loro situazione di difficoltà, diventano dei film non pagati dallo Stato ma pagati dal Festival e dal London Short Film Festival. Noi racconteremo semplicemente che cosa abbiamo raccolto e l'ingresso è libero, l'auditorium del Sole 24 Ore qui in via Monterosa 91 dalle 18.30 in poi di giovedì a borsa. Dicevo giornata debole ma nulla di preoccupante, meno 0,37% Milano, meno 0,70% Parigi e anche Francoforte, meno 0,50% Londra, meno 0,70% gli Stati Uniti, Monte dei Paschi meno 3% e Steam Microelectronics più 3%, i due primi titoli che vorrei affrontare come sempre con i colleghi di Radio Colli sulle 24 ore. Eleonora Micheli, grazie, buonasera. Buonasera, sì, Monte Paschi meno 2,9%, ha accelerato al ribasso soprattutto nel pomeriggio, mentre da Siena venivano le notizie relativamente all'assemblea che si è tenuta quest'oggi e che è stata molto partecipata ma soprattutto molto tumultuosa. Assemblea che ha dato il via libera all'aumento di capitale da 1 miliardo e, come ha detto lo stesso presidente Alessandro Profumo, è un aumento di capitale che è inevitabile per la banca, visto che è necessario un rafforzamento, visto che la banca stessa deve comunque fare affidamento su aiuti statali per 3,4 miliardi che dovrà restituire. Comunque Profumo ha dichiarato che l'aumento di capitale non avverrà nel breve periodo, il mandato è stato dato al CDA nel giro di 5 anni. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Vorrei concludere l'approfondimento di borsa dopo aver parlato di del Monte dei Paschi, che ha perso, è il titolo che perde di più oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione dopo le parole di Profumo, che ha detto appunto non conosciamo assolutamente, non abbiamo la benché minima idea di chi potrà sottoscrivere l'aumento di capitale, noi non vogliamo vendere la banca. L'assemblea comunque vuole approvare un aumento di capitale da 1 miliardo di euro. Per il resto non sono arrivate grosse indicazioni a livello internazionale, le parole di Draghi le abbiamo ascoltate. Andrei su altri titoli. Eleonora Micheli, Telecom Italia oggi di nuovo in sofferenza, -1,71%. Sì, Telecom Italia continua a essere sotto i riflettori, ci si interroga sullo scorporo della rete. Secondo indiscrezioni di stampa, entro metà mese, entro il 15 ottobre, i vertici della società sceglieranno degli advisor per procedere allo scorporo della rete, quindi si va avanti, sembra, con il progetto che diventa sempre più concreto. Ancora tra i titoli Finmeccanica non ha beneficiato, devo dire, dell'ipotesi di cui adesso parleremo, che salti la fusione tra i concorrenti EADS, ossia Airbus e Bysystem, -0,10%. Ansaldo STS invece +2,60%. Sì, il mercato continua a interrogarsi sulla cessione delle controllate di Finmeccanica. Finmeccanica comunque oggi ha più volte cambiato direzione, ricordiamo che ha fatto molto nelle ultime sedute, +14% solamente nelle ultime sedute, quindi un po' di prese di beneficio erano da mettere in conto. Ci si interroga soprattutto sulle cessioni e sulla cessione di Ansaldo Energia, per la quale, secondo indiscrezioni di stampa, sembra che sia interessata anche la stessa Enel al fianco del fondo strategico che controllato, ricordiamo, dalla Cassa Depositi e Prestiti. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane. Ancora Mediaset, bene, oggi +1,46% a 1,46 euro. Sì, in questo caso è l'effetto Celentano. Ieri sera trionfo d'ascolti, uno share superiore al 26%, del resto anche coloro che raccolgono la pubblicità per Mediaset avevano puntato molto su queste due serate che si sono rivelate un successo. Beh, la seconda stasera, ma appunto vista la prima dovrebbe essere un successo anche la seconda. Alcuni di voi per inciso ci hanno scritto: non fate risentire, ascoltare Fitoussi. Jean-Paul Fitoussi modestamente è stato il nostro ospite decine di volte e ha detto cose che sostiene da tempo, che siamo in mano, diciamo, a dei decision maker, dei politici / tecnici che hanno intrapreso la strada più sbagliata possibile per uscire dalla recessione. Devo dire che in buona parte condividiamo anche quello che dice Fitoussi, non a caso, non solo per questo, ma viene spesso in trasmissione. Andiamo avanti con i titoli invece e spostiamoci tra i migliori e i peggiori. Screen Service +31%, qui c'è un'OPA in corso, un'offerta pubblica in corso. Effetto OPA in questo caso è del tutto a sorpresa, è stata lanciata l'OPA da Montebianco, sono stati offerti 0,22 euro, ecco perché i titoli sono volati quasi al prezzo dell'OPA, hanno chiuso a 0,21-34 euro, sono volati del 31%, il premio offerto rispetto ai prezzi dei giorni scorsi è del 47%. Ancora peggior titolo invece Telecom Italia Media sul risparmio, -8,40, Cell Therapeutics -5,80, ci sono novità su Cell Therapeutics? Ma è un titolo che si muove molto anche in base ai brevetti che vengono, a cui viene dato il via libera o meno, e oggi sono scattate le prese di beneficio. Ancora Camfin -4,1%, è il titolo che controlla poi il gruppo Pirelli. Domani si terrà l'importante consiglio di amministrazione di cui si parla ormai da settimane, consiglio di amministrazione che dovrebbe varare il lancio del bond convertibile in azioni Pirelli, e quindi oggi sono comunque anche in questo caso scattate le prese di beneficio, ma è un titolo che ha corso molto nelle ultime settimane. Come si è mossa per concludere RCS, quindi Rizzoli, Corriere della Sera, dopo le dichiarazioni di Proto che ha detto che vuole salire ancora nel gruppo? RCS sul finale, alla fine, ha perso lo 0,3%, ma rimane sempre sotto i riflettori, è un titolo che per quanto in borsa ce ne siano ormai poche di azioni, è stato ben scambiato. Proto ha detto che vorrà salire ancora e siamo già quindi a 2, visto che nelle scorse settimane anche Della Valle aveva detto che salirà ancora nel capitale dell'azienda editoriale. Ancora per concludere altri titoli con le variazioni più significative: Gemina sul risparmio meno 4,20 e poi Seat Pagine Gialle meno 4,80, fronte opposto Tiscali più 4,60 e Stefanel più 11,30%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo però in tema di borsa per appunto l'annunciata fusione, quella che doveva creare il colosso nel settore aerospazio difesa tra Airbus, ossia EADS che la controlla, e Buy System, che molto aveva scornato Finmeccanica, nemmeno interpellata, e che avrebbe che, o creerebbe un colosso alla pari, diciamo, di Boeing. Varrebbe infatti la fusione 70 miliardi di euro di fatturato. Voci che tutto possa saltare. 349-238-6666 per i vostri SMS. Perché mentre siamo contenti che Finmeccanica si sia aggiudicata nuovi ordini per un valore complessivo di 93 milioni di euro, sottoscritti dalle controllate Augusta Westland, quindi elicotteri, Selex Galileo, quindi sistemi elettronici di difesa integrati, Selex Elsag e DRS Technologies, non si capisce cosa stia succedendo alla fusione del secolo per quello che riguarda il settore aerospazio e difesa. Chiedo lumi e chiedo luce a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Sebastiano. Allora, la fanno o non la fanno? Perché poi il portavoce di EADS, quindi di Airbus, si è dichiarato sorpreso dalle notizie che parlavano di una rottura nella fusione. E quindi? Mancano poche ore, domani è il termine che le due società si sono date per chiudere l'accordo che creerebbe il supergruppo, il primo del mondo per dimensioni. Oggi c'è stata a metà giornata una notizia dell'agenzia tedesca che diceva che va tutto saltato, poi è stata smentita. Mancano ancora comunque particolari importanti, però le parti stanno trattando e quindi la possibilità di una convergenza, di un accordo, viene considerata ancora, diciamo, come una cosa possibile. E le ultime notizie però vanno prese sempre con cautela, perché non c'è nulla di ufficiale. Dicono che Francia e Gran Bretagna avrebbero superato quello che era il diverbio principale, cioè il peso delle partecipazioni pubbliche nel futuro gruppo, perché mentre Buy System, cioè la società britannica, è totalmente privata, un po' nello stile delle public companies anglosassoni, e ADS, cioè quella che controlla Airbus, che poi è il gruppo più grande, di fatto è quello che prenderebbe il controllo, che conquisterebbe il gruppo inglese, è una società in cui hanno un peso importante il governo francese e il governo tedesco. Ma il motivo che potrebbe stare alla base, adesso stiamo lavorando nel campo delle ipotesi, di una fusione annunciata che sembrava appunto creare il colosso mondiale, tagliando fuori Finmeccanica e andando direttamente a scontrarsi, a fare concorrenza con Boeing? Allora, il motivo, innanzitutto ci sono resistenze forti nel mondo britannico, fornitori, ma anche il governo, il che dimostra che nei paesi, diciamo, di un certo peso, anche quando il governo non è azionista di una società, conta lo stesso. Temono che, essendo di fatto un'acquisizione, questo possa impoverire anche il lavoro per l'industria britannica e anche certe produzioni strategiche, per esempio Bae costruisce i sottomarini nucleari che vengono usati dalla marina britannica, e ci sono poi forti resistenze anche negli Stati Uniti, dove la Bae ha una vasta presenza. La Bae è essenzialmente un'azienda militare, mentre EADS è Airbus, quindi, come hai detto, essenzialmente, cioè aerei commerciali per passeggeri, e quindi anche negli Stati Uniti i concorrenti fanno lobby nascosta contro questa operazione. Secondo il punto, diciamo, le ultime notizie delle agenzie, Francia e Gran Bretagna avrebbero raggiunto l'accordo per cui non più gli stati, quindi Germania e Francia, non dovrebbero possedere quote superiori al 18% della nuova entità comune, che è comunque una quota importante, ma più bassa di quella che oggi è la quota di Francia e Germania dentro EADS, che è circa il 45%, anche se non tutto statale, ma di fatto controllato dagli stati. Sì, resta comunque, adesso vediamo cosa capiterà, l'amarezza per aver visto Finmeccanica completamente tagliata fuori da questi giochi, ma soprattutto nemmeno consultata l'ipotesi di fare un'alleanza anche con Finmeccanica. E questo soprattutto, non è stata proprio presa in considerazione, come se fosse un paese, diciamo, una società totalmente marginalizzata. Penso che abbiano anche pesato le vicende che da qualche anno, anche nell'alternarsi dei capi azienda, adesso c'è Orsi, no? Prima c'era Guaguaglini, sembrano, diciamo, puntare l'attenzione, anzi puntano l'attenzione, perché le cronache dei mezzi di informazione sono composte più, anche oggi ci sono altre notizie giudiziarie, per quanto ancora la magistratura non sia mai arrivata, diciamo, nei confronti dei vertici, addirittura per Guaguaglini c'è ormai l'archiviazione in arrivo, ma adesso c'è un'indagine più, insomma, pesante su Orsi, però non è mai arrivata alle conclusioni, ma ormai sono due gruppi la cui reputazione, la cui immagine è certamente indebolita. ...18:21, dicevamo della vicenda, del Consiglio dei Ministri, ma anche la vicenda Esodati. Allora, sul fronte Esodati, andiamo con ordine, la Commissione Bilancio della Camera ha constatato l'assenza delle coperture finanziarie al disegno di legge Damiano, quello che estende la platea degli esodati, cioè di chi si è trovato senza lavoro e senza pensione, perché aveva accettato prepensionamenti, diciamo in maniera breve, ma poi la legge Fornero ha alzato l'età pensionabile e si ritrova in terra di nessuno. Dicevo, la Commissione Bilancio ha detto che manca la copertura finanziaria, che è il parere anche della Ragioneria dello Stato, troppo oneroso, varrebbe circa 5 miliardi di euro infatti, estendere l'accesso alla pensione a circa 250-300 mila persone rispetto alle iniziali 120 mila attualmente protette dalla riforma Fornero. Ascoltiamo la testimonianza di alcuni esodati come raccolta che manifestavano di fronte a Montecitorio oggi e che ha raccolto la nostra Alessandra Schepisi. La Fornero ha salvaguardato quelli usciti realmente nel 2011, per un mese, quindi non sono salvaguardato. Avrei dovuto percepire la pensione da aprile 2013 e diciamo che l'incentivo che mi ha dato l'azienda a questa data arrivo tranquillamente, poi non so cosa fare. Dovrei stare senza lavoro, senza pensione per 3 anni e mezzo. Farò il lavoro nero, poi farò furti, non lo so. Lo Stato italiano mi ha incitato ad andare via. Mi ha detto: vuoi uscire dal lavoro? E io ho detto sì, quindi mi ha spinto, come ha fatto con tantissime donne di Poste. La maggior parte di noi sono donne, sono state incentivate all'uscita per fare posto ai giovani, dicevano. E adesso lo stesso Stato mi dice: però scusa tanto, sai, la pensione non te la do più nel 2015, ma te la do alla fine del 2020. Vedi un po' che puoi fare. Non si può più fare niente, perché noi siamo ormai fuori, quindi non abbiamo pensione e non abbiamo stipendio. La Fornero, io voglio solamente una cosa: se sa veramente quello che lei ha fatto. Perché approfittare di persone che sono fuori dal lavoro e hanno 60 anni? Io le chiedo alla Fornero, chi mi prende a me 60 anni a lavorare? Beh, noi abbiamo detto da sempre che è stato uno scivolone non pensare a quello che sarebbe capitato a centinaia di migliaia di persone. Non si può dire semplicemente adesso mettiamo mano, no, visto che appunto uno insegna, ha un atteggiamento professorale, va benissimo, però insomma, e quindi adesso occorre mettere mano. La cifra è alta, 5 miliardi sono alti, visto che il governo sta cercando di trovarne 10 in tutto per evitare l'IVA e avere i soldi per il terremoto e per continuare a mantenere le agevolazioni fiscali sui premi di produttività. Andrea Viali sta seguendo da oggi pomeriggio, prima l'incontro tra il governo e le parti sociali, tra cui Confindustria, adesso il Consiglio dei Ministri. Andrea, buonasera innanzitutto. Buonasera Sebastiano, a te e agli ascoltatori. Abbiamo qualche dichiarazione almeno dei sindacati? Sì, in realtà poche dichiarazioni, perché a parlare sono stati soltanto i rappresentanti della CISL e della UIL. Susanna Camusso ha lasciato Palazzo Chigi senza rilasciare dichiarazioni, sappiamo che stamattina era stata particolarmente critica, aveva minacciato anche uno sciopero generale. sindacati sostanzialmente hanno detto che nell'incontro sono stati illustrati da parte del governo le linee guida, gli obiettivi della legge, senza però entrare nello specifico, non si è parlato di cifre sostanzialmente. C'era Focillo, ha parlato per la UIL, il suo è stato un giudizio un po' così lasciato in sospeso. Più positivo è sembrato invece Bonanni, che visto, ecco, più luci che ombre, se mi passi questa espressione, in quello che ha promesso il governo, soprattutto hai parlato sul fronte degli esodati, ma se vuoi possiamo sentire, so che abbiamo la voce di Bonanni, il contributo audio. Ma mi pare che il governo ha presentato, almeno per adesso, una posizione ragionevole per trovare i soldi per scongiurare appunto lo scatto, l'aumento dell'IVA, che noi naturalmente condividiamo, anche se ci aspettiamo di caricare più sulle indirette in prospettiva, anziché sulle dirette, sull'IRPEF, che vogliamo in ogni caso che si alleggerisca. È importante quando Monti dice: se fate l'accordo sulla produttività, e noi siamo lì per raggiungere l'accordo, vi ridiamo indietro la detassazione privilegiata per il salario di produttività. Questo è un fatto molto importante su cui abbiamo molto molto insistito ultimamente. E poi stamattina, voi sapete, eravamo in presidio per trovare altri soldi per gli esodati, che noi pensiamo sia un fatto di grande valore, perché non è stato giusto tenere in difficoltà per mesi, mesi e mesi, oramai raggiungeremo quasi un anno, persone che oggi non sono né pensionati né lavoratori, e si è detto che vogliono trovare soldi per sostenere costoro. E voi sapete, la nostra opinione è quella di risolvere fino all'ultimo esodato e di trovare i soldi attraverso una revisione della spending review ancora, e si può fare più profonda, soprattutto in questa impalcatura amministrativa e istituzionale troppo esandante, e attraverso le transazioni finanziarie e i redditi finanziari. Credo che sia un segnale questo positivo. Vediamo dentro la spending review che cosa c'è. E come diceva il segretario della CISL Bonanni, è chiaro che i soldi, insomma, che il governo deve reperire sono in parte dovuti alla... deve trovare 10 miliardi circa, ma poco arriva dalla spending review, se abbiamo ben visto, 400 milioni, non di più, qualcosa in più potrebbe arrivare dalla rimodulazione delle agevolazioni alle imprese, su cui il presidente Squinzi non si è detto in disaccordo. Ma è chiaro che i sindacati puntano ad avere minori costi per quello che riguarda la spesa della pubblica amministrazione. Andrea, il consiglio è iniziato da pochi minuti, quindi con un ritardo di quasi un paio d'ore. Previsioni? Un paio d'ore, guarda, se ci basiamo sugli ultimi consigli dei ministri, le conferenze stampa non ci sono state mai prima delle 10:30-11, speriamo che non si ripeta questa tradizione del governo. Comunque il consiglio dei ministri è iniziato in ulteriore ritardo, non solo perché si sono protratti questi incontri con enti locali e parti sociali, ma anche perché poi al termine degli incontri il presidente del consiglio Monti ha lasciato Palazzo Chigi, ha partecipato brevemente ad un convegno sempre in centro a Roma, poi è rientrato a Palazzo Chigi per la riunione che appunto sta iniziando in questi minuti. Sì, speriamo che finisca presto, anche per te che lo devi seguire. Grazie Andrea Viali, in collegamento con noi da Palazzo Chigi. È tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.